finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. È solo chiacchiere. 21 e 54 minuti primi, avremmo voluto cominciare anche prima. Ringraziamo Elettrodo per lo spazio che ci ha concesso in onda. Come avrete avvertito sulle libere frequenze di Onda Rossa 87.9, la banda romana e laziale. E come promesso, questa sera in due. Se vuoi, già ho aperto il microfono. Pronto, mi senti? Che vocione. Forte e chiaro. Ciao, ciao a tutti, un saluto ai compagni all'ascolto. Sì, Stefano, volentieri stasera, ma chiamato e volentierissimo. Siamo qua, portiamo così un piccolo contributo. Come annunciato. Come annunciato, questa sera andremo in onda. Vabbè, poi lo spiegheremo mano a mano. Comunque, come detto, anzi, no, non lo diciamo mano a mano, ve lo lasciamo intuire. L'avevamo anticipato da parecchie settimane. Poi abbiamo posticipato un po' la data proprio per prepararci a dovere. E così, insomma, questo primo novembre, approfittando appunto anche dello spazio concessoci da Elettrodo, che appunto è in vacanza, e le sue prove tecniche di trasmissione pure. Gracchia tutto, ma questa è Radio Onda Rossa. Allora, Radio Onda Rossa, che vive grazie al contributo di tutte e tutte voi, siamo in bolletta, che ve lo dica fa. Di tanto in tanto, sovente, spesso andiamo sotto con i conti, e per cui mano al portafoglio. Come si diceva, una mano sul cuore e una al portafoglio. Vedete che potete fare, vi diamo subito i dettami per... Potete sottoscrivere per questa emittente che appunto nel 1977, più di 40 anni, è la voce dei movimenti. È la voce di chi non ha voce, quindi www.ondarossa.info è il sito, andate sulla cartella, sul tasto, come si dice. Sostieni, troverete una paginetta dove ci stanno un sacco di modi per sostenere Radio Onda Rossa, per sottoscrivere. Oppure 61 80 40 01, conto corrente postale, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56, 00185, Roma San Lollo. Oppure venite qua, appunto, a via dei Volsci, al primo piano, al 56. In orario, dalle 9 alle 19, più o meno. A trovarci e lasciate quanto vi sentite di lasciare, quanto potete lasciare. Sappiamo tutte e tutte che se la radio in bolletta, noi altrettanto, in questo periodo di crisi economica, che dicono che è passata, ma noi appunto a giudicare dal peso del portafoglio non ci risulta molto questa cosa. Onda Rossa, @ondarossa.info, il sito. La posta elettronica della radio, la email per le vostre comunicazioni, 25 o'clock, 25 scritta a numero, 25 o'clock, @ondarossa.info. È la mail della trasmissione che state ascoltando per mandare le vostre comunicazioni a noi, che sono essenzialmente proposte musicali o anche gli insulti, quando e come volete. infine, quando scoccano le 22, vi do il numero del telefono di Radio Onda Rossa, il contatto telefonico 06491750, da sempre usatelo a dovere. eccoci qua al 1989, da qua che cominciamo stasera per ricordare un pezzo di quella storia e della storia anche nostra, partendo da quella notizia che un giorno a settembre ci siamo scambiati e Stefano. Sì, quando diciamo non ci sentiamo di tanto in tanto e purtroppo alle volte capita anche per fatti funesti e per quanto appunto riguardino persone fisicamente lontane da noi, sì, invece sicuro, emotivamente molto, pezzi molto, di storia che ci hanno attraversato, ecco. Si tratta di Glenn Hart, se n'è andato un giorno di settembre, a metà di settembre, credo avesse 56 anni, lui era il batterista, classe e... 1962 se non sì, erro 62, e se n'è andato dopo una vita complicatissima, 15 anni gli ultimi 12 anni ha combattuti contro la malattia. La sua storia anche all'interno degli Husker Du è stata quella più che già di per sé non è una storia semplice, sì, quella degli Husker Du per niente, sì, ma lui era quello che era sempre il reduce rispetto anche a Bob Mould, ha veramente tribolato nonostante una sensibilità fortissima, una capacità di scrivere musica e testi forse anche più bravo di Bob Mould. Certo. E quindi adesso quello che stiamo ascoltando era All My Sense, il brano che abbiamo ascoltato, che un grande classico, un grande classico, queste parti in anni passati, e il suo disco più bello da quando partì da solo per la sua strada, adesso si è interrotta e stiamo continuando a sentirlo dietro. Niente, lui rappresentava l'anima, quella più complicata, quella più problematica, quella più degli Husker Du, ma anche quella più capace di stare su suoni più facilmente definibili come pop, per quello che dentro un brano degli Husker Du se può, poi quando sentiremo altri brani, certo, lo capiremo, insomma. E niente, lui partendo da questo, Minneapolis, tutta una scena, oltre loro, che ne so, Piccoli Cenni, Replacement, proprio addirittura dall'altra parte, non dall'altra parte, ma un po' più lontano, i Minutemen, la California. In una terra, diciamo, più idonea a produrre, sì, quelli che erano quei suoni dei primi anni 80, non questi dell'89, ma quelli con cui gli Husker Du partirono a suonare. E proprio su questa cosa qui di Minneapolis dove si trova, tanto per inquadrare un po', per capire, perché poi le volte crediamo corra dare delle coordinate generiche, generali. La Minneapolis degli 80, Minneapolis è una città, anzi St. Paul per l'esattezza, sì, proprio, che però è un sobborgo. Sì, è un sobborgo, di per sé sarebbe un'altra città, sì, è un comune a parte, però fanno parte dello stesso agglomerato urbano, sono praticamente attaccati. È una parte, un quartiere, ecco, della grande area urbana di Minneapolis, che si trova su un fiume e si trova su un fiume e si trova su una terra a nord degli Stati Uniti, quasi al confine col Canada, dove fa freddo lì, eh? Dove fa un cazzo di freddo, dove le temperature, diciamo, in inverno salgono molto raramente sopra lo zero, temperature medie invernali, specialmente nel nord del Minnesota, intorno ai meno 7, sì, in estate abbiamo 20-25 gradi, e però questo fatto appunto di essere questa terra poi tutto sommato pianeggiante al centro degli Stati, sì, Uniti, al centro nord degli Stati Uniti, ne ha fatto il granaio degli Stati Uniti, lo stato forse che produceva e che vedeva proprio su questo fiume, per la presenza di questo fiume, i mulini fino agli anni 30 del Novecento, quindi Minneapolis e St. Paul che crescono a dismisura fino a quell'età, e poi a un certo punto arriva l'energia elettrica e si possono costruire i mulini dappertutto e quindi non servono più questi mulini. L'hai presa bella lontana. Però per dire che inizia la decadenza, se vuoi, dello splendore di Minneapolis. E negli anni 80 mi ricordo che parlavo con la gente e gli dicevi: ma questi stanno a Minneapolis, dove sta Minneapolis? Non la conosceva nessuno, certo. Era veramente un posto abbastanza sconosciuto, la provincia degli Stati Uniti, benché fosse la capitale della provincia, una città grossa, poi alla fine ci torneremo su questa cosa della provincia. E Negli anni 80 cosa succede? Negli Stati Uniti succede che succedono un sacco di cose. Arriva un certo Ronald Reagan, ma prima di Ronald Reagan arriva che il conflitto USA URSS eccetera. Gli Stati Uniti hanno un periodo di stagnazione, la fine della guerra fredda, la guerra in Vietnam persa, l'economia che non si riesce a rilanciare e soprattutto lo spostamento del centro economico industriale degli Stati Uniti, che era proprio negli stati centrali, verso invece il Sun Belt, si chiama, che sono la California, la Florida, gli stati del sud, il Texas eccetera. Sono questi gli stati dove si accentrano le attività economiche, sì. E quindi la depressione che si sviluppa negli Stati Uniti è ancora più... Questo è un elemento fondamentale per capire quello che poi successe in questi ambiti, dove gruppi, pezzi della gioventù americana più capace ancora di ragionare, più attenta alle esigenze anche potremmo dire rispetto ai yuppies proprio umane, no? Perché quell'altra era proprio la disumanità, secondo me, totale. Attraverso la musica riescono a cogliere questi aspetti e a sfangarla per cercare di superare momenti durissimi. Ricordiamoci pure che sono gli anni in cui l'eroina ha cominciato a falcidiare intere generazioni, ma che ne so, all'interno di realtà piccole, i compagni di classe, i compagni di scuola, certo, i compagni, te lo trovavi, ti ce li avevi dentro casa, e questo è un elemento che poi in queste canzoni uscirà fuori in maniera determinante, in tante canzoni bellissime che Graham Hart anche, sì, tra l'altro il loro rapporto con l'eroina era diretto, insomma, diretto per tutti e due, lui ancora più invischiato perché rispetto a Bob Mould probabilmente, e quindi storie che colgono perché sono storie comuni di generazioni, ragazzi che vengono, gente uscita, nata più o meno in quegli anni. Che assolutamente sono in grado di capire, di comprendere, però loro scelgono l'hardcore che però per loro era una base d'inizio, perché poi era l'inizio, era forse quello che stava esplodendo in tutti gli Stati Uniti, la capacità che ci avevano e si è vista subito di evolvere. C'è chi ancora dice che Zen Arcade sembra un progressive hardcore, insomma, sì. Effettivamente o comunque un gruppo, è un disco che è disco molto seminale, molto di più, lo andremo ad ascoltare, poi lo sentiremo. Dunque, non so, hai qualcosa te o vado io? Vai, per con uno stacchetto, vado io per continuare il discorso di prima. Andiamo in California e appunto quello che abbiamo ascoltato era 1989 e musica e suoni assolutamente in pieni anni 80, quasi anni 90, ormai è stato digerito. Vediamo invece gli X da Los Angeles, che cosa suonavano sempre negli stessi anni, 81 probabilmente, forse questo disco del 79, poi lo andremo meglio, anzi no, ce l'abbiamo qui, ve lo diciamo subito, questo disco è dell'80. Quindi nell'80, però con lo sguardo rivolto al decennio precedente, assolutamente. Questi non era questa la traccia, la numero 10, quindi la prepariamo, che si chiama I'm Coming Over ed è un demo, quindi una traccia abbastanza rara per XN e per gli X. I'm coming over, I'm coming over, I'm coming over, so move over. I'm Ed eccoci qui ancora da quelle parti, vi abbiamo detto, i Replacement ci hanno accompagnato questo stacco che Stefano ascoltava saltellando. Questi erano il lato, loro rappresentavano il lato più morbido, quello più giovanilistico del movimento, che comunque un piccolo movimento è stato in quegli ambiti. Si occupavano di tematiche molto legate alle esigenze dei ragazzi, per esempio molti dei brani dei Replacement parlavano di questioni legate alla sessualità. Mm-hmm. Erano cose che comunque avevano a che fare con un approccio che la musica aveva per la prima volta, cioè si parlava delle tue cose, la musica serviva a raccontare i ragazzi, la loro vita, i giovani, certo non a livelli di presa di coscienza di tanti alcuni di altri momenti storici, di tutti magari, i passaggi, certo. Però comunque rispetto allo yuppismo imperante erano comunque dei segnali diversi. Eh sì, perché appunto faccio una piccolo inciso, perché proprio in quegli anni succede questo fatto che tu accennavi prima, cioè questo grosso spostamento a destra della società Stati americana, della certo. società americana, che non avviene tanto perché viene eletto Ronald no, Reagan, non è quel. O perché c'era la Thatcher, ma perché molti dei democratici in questo scontro fra USA e URSS, esatto. erano profondamente anticomunisti, nel senso certo, antisovietici, certo. e quindi si spostarono mano a mano a destra, lasciarono i liberals, diciamo, già all'interno del Partito Democratico, e poi più tardi divennero in grossa parte sostenitori appunto del neoconservatorismo e quindi di Ronald Reagan, si spostarono già dalla fine degli anni 70, quindi dando vita poi alle basi affinché nel 1980 fosse eletto Ronald Reagan alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Certo, certo, non ci scordiamo che dietro a questo c'era comunque non era una filosofia, era proprio i rapporti di forza tali in quel periodo che il liberismo dal punto di vista economico aveva cominciato a essere, diciamo, a pensiero essere dominante tra virgolette, anche dove prima, perché semplicemente il New Deal, le basi economiche che c'erano prima cominciavano a dare delle profonde crepe, e quindi poi magari andremo a spiegare pure queste altre cose. Nel 1984, in tutto questo, in un giorno preciso, non mi ricordo quale fosse, in quale mese, mi pare il mese fosse gennaio, un'etichetta storica del movimento underground americano, che è l'SST, pubblicò questo disco di questo gruppo hardcore, un disco doppio, una cosa che non si era mai vista, un gruppo punk hardcore ancora non conosciutissimo, normalmente pezzi da un minuto e mezzo, che pubblica un disco doppio, un LP doppio, un concept album che racconta la storia di un ragazzo che per cercare di uscire da i guai suoi che c'ha all'interno dei rapporti familiari assolutamente complicati, nei rapporti con le istituzioni scolastiche impresentabili, fa delle scelte, diventa militare, torna, poi trova una ragazza, si innamora, e poi nell'ambito del concept album ci accorgiamo che quello era nient'altro che un sogno, e quindi in realtà è proprio una cosa che nell'hardcore non c'era mai stata. Questo disco, un'elaborazione si chiama così complicata, no. L'hardcore era a fare testi diretti, sì. Che guardavano certo a problematica, alla problematica, alla realtà, però con un'estrema violenza, con un'estrema esplicitazione, non so che volevi dire, quella roba là. Sì, questa è una forma un po' più, diciamo, tra virgolette, si potrebbe definire un po' più intellettuale. Però non è così. Intellettuale è proprio una parola, proprio basato più sulla sensibilità e dei singoli, sull'ambientazione proprio geografica, certo, storica anche. di quel sì, momento. Ricordiamoci, si sono incontrati dentro un negozio di dischi. Ricordiamo 1962, 1984, stiamo parlando di gente di 22 anni. Certo, 22 anni dentro un negozio di dischi, lui faceva il commesso o passava il suo tempo libero, perché vivere dentro un negozio dove si poteva sentire la musica e avere il cervello che poteva essere libero era già una cosa importante. Si conoscono e per 10 anni vivranno sostanzialmente attaccati insieme, anche con conflitti certo, profondissimi, certo. E a un certo punto da questo conflitto, da questa da questa competizione tra i due nascerà un disco fondamentale come questo. Adesso noi ci sentiamo un brano che fece un grosso scalpore, perché è una ballata quasi folk all'interno di un disco hardcore punk. That I'd like to say, but I'm never talking to you again. There's things I'd like to pray somewhere, but I'm never talking to you again. I'm never talking to you again. I'm never talking to you. I'm tired of wasting all my time trying to talk to you. Put you down where you belong, but I'm never talking to you again. I show you everywhere you're wrong, but I'm never talking to you again. I'm never talking to you again. I'm never talking to you. I'm tired of wasting all my time trying to talk to you. Talking to you. I'm never talking to you. I'm tired of wasting all my time trying to talk to you. Yeah. Allora, eccoci di nuovo in onda, 87.9 della modulazione di frequenza, 22.31 minuti primi, Conte Max qua, 25 o'clock a parlare di Grant Hart. Il Caronte ha detto che ci avrebbe ascoltato, quindi il Caronte ci ascolta sicuramente. Sì. Comunque salutiamo tutti, salutiamo i compagni e le compagne che ci ascoltano. Questa è sempre Radio Onda Rossa. E abbiamo sentito adesso, così messa un po' all'improvviso a coprire i nostri disguidi tecnici. Abbiamo ascoltato la ventiduesima traccia. La ventiduesima traccia da Zen Arcade, Tour on the News. Cantata e scritta da Grant Hart mentre suona la batteria. Tanto perché abbiamo mandato di Zen Arcade, abbiamo mandato una traccia assolutamente fuori sì, genere, sì, rispetto a quanto eravamo abituati sul loro primo disco, che era praticamente, certo, un demo e quindi un disco spintissimo di hardcore. Invece appunto questa elaborazione di cui parlavamo prima di Zen Arcade, di come appunto in realtà poi Zen Arcade appunto c'ha queste robe qui, ecco. Sì, c'è questo, c'ha molto altro. C'ha molto altro e delle canzoni comunque proprio belle da un punto di vista anche dei testi. Alcune sono riuscite a tradurle grazie alle traduzioni che si trovano su internet. Magari se c'è qualche passaggio riusciremo a leggerlo. E comunque è il 1984, adesso le cose cominciano a essere molto conflittuali, il gruppo però cerca di superarsi uno con l'altro ed è una corsa spasmodica che ci ha portato dei dischi bellissimi, fra l'altro l'ultimo prima dello scioglimento, che poi un paio di pezzi riusciremo ad ascoltarlo, che quando sarà Warehouse Songs and Stories, quando cominciano a incidere per una grande etichetta, dove c'è il passaggio. Sì, qui il problema con la SST fu che il disco vendette talmente bene che cioè loro rispetto alle copie che l'SST produsse, aveva preventivato, che rimasero per circa un periodo lunghissimo senza poter vendere i dischi, con richieste e questo ruppe un po' i rapporti. Poi dopo un po' questo rapporto finì, anche perché poi il gruppo fece soltanto altri due album, Warehouse, Candy Apple Grey e poi lo scioglimento, insomma. Certo. Dai. Adesso saltiamo e andiamo appunto su Candy Apple Grey e ci sentiamo Somewhere Someone. No need to touch it now. 22:38, quindi. Ma che ci azzeccano i Clash con tutta questa faccenda qua? Allora, per dire che questo concerto a Shea Stadium questo concerto, appunto, il 13 ottobre 1982 allo Shea Stadium di New York con gli U, i Clash e David Johansen del New York Dolls. Gli stiamo parlando praticamente dell'anno in cui iniziarono a suonare, fecero uscire appunto i primi demo, Asker Du. E questo qui era i Clash in questa praticamente in Magnificent Seven. Pongono un po' le stesse tematiche che potevano essere gli Asker Du, cioè cose di vita quotidiana tipiche del punk, che con un viraggio più politico, perché i Clash comunque avevano questa sensibilità di voler comunque mettere le loro piccole storie in relazione con le grandi vicende dell'umanità. La capacità era quella, cioè la differenza. La differenza che anche all'interno del punk, no? Quindi raccontare queste piccole storie, ma con dei suoni che invece provenivano innanzitutto da Londra. Mischiati con i suoni giamaicani. In realtà erano suoni ormai del mondo, insomma. Erano suoni del mondo, avevano fatto il combat rock, era in realtà uscito dal punk, era diventato qualcosa di. E tra l'altro nel 1982 ormai stiamo parlando di una band che in 5 anni faceva un patrimonio, un botto di soldi, insomma. Sì, ormai erano diventati delle loro star. Sono morti abbastanza poco, cioè alla fine Strammer è morto abbastanza poco. Sì, non si sa bene, evidentemente. I diritti d'autore, sì. Pure gli altri, insomma. Queste sono strane storie che magari una volta bisognerebbe anche un po' capire. Sì, li abbiamo già affrontate. Non lo sapevo, perché poi effettivamente non te le vai nemmeno ad immaginare, però effettivamente pure il vecchio Joe quando se n'è andato, insomma. Certo, non era morto di fame. Non era morto di fame, ma nemmeno era un miliardario. Ecco, anche perché i soldi poi si compravano le macchine, loro insomma erano un po' così. Sì. I ragazzi. E, cosa succede negli Stati Uniti, appunto, in quel periodo? E prima lo stavi quasi accennando, perché parlavamo appunto di questa storia dell'avvento di Reagan e di queste politiche neoliberiste nuove. Certo. Che venivano in realtà dalla Gran Bretagna, ma mentre nella Gran Bretagna la Thatcher faceva del rigore l'elemento fondamentale, per cui la diminuzione delle tasse, perché poi questo era un po' diminuzione delle tasse e diminuzione delle spese, la restrizione delle spese welfare, sociali, che esatto. In Inghilterra era avanzato, certo, era avanzato. Negli Stati Uniti il welfare, ci ricordiamo i primi film di Ken Loach, no? Certamente le battaglie dei minatori, proprio sempre di quegli anni là. Cosa succede? Negli Stati Uniti arriva Reagan e inizia queste nuove politiche di stretta monetaria da una parte e dall'altra parte di diminuzione delle tasse e secca. Nel 1982 a favore dei ceti imprenditoriali e basta. A favore la politica dei due terzi, no? I due terzi del perché loro potevano spendere, fanno vincere le elezioni. Sì. Essenzialmente poi perché non me ne frega niente, essenzialmente anche perché non va a votare. Certo. Quindi certo. È ininfluente ai fini assolutamente proprio. Quindi mantenere comunque cercare di mantenere la classe media come il Caterpillar, sì, la classe media in qualche maniera non toccarla troppo almeno perché questo avrebbe secondo le teorie neoliberiste appunto aumentato il lavoro quindi aumentato creato lavoro. Sono cose che sappiamo ancora oggi perché sono teorie che ancora ci vengono riproposte. E invece cosa succede? In realtà nel 1982, per una serie di cose congiunturali, non era sicuramente tutta colpa dei neoliberisti e di Reagan, certo, gli Stati Uniti affrontano una crisi enorme, esplode, riescono in qualche anno, 83-84, a far risalire il PIL, ma questo comunque a fronte appunto di questi due elementi che abbiamo detto, diminuzione dell'introito fiscale, quello che lasciano dietro questi due anni e mezzo, certo, ovviamente non è, noi parliamo così sì, a posteriori, ma in realtà sono lacrime e sangue. Probabilmente questi ragazzi di cui parliamo facevano parte della classe operaia, le famiglie, cioè, erano famiglie, non erano sottoproletari, ma erano proletari, gente che lavorava, quindi con una sensibilità comunque di base che era quella della gente che stava dalla parte giusta, quella che era la parte giusta, insomma, complessivamente, per quello che poi anche negli Stati Uniti una cosa del genere vuol dire, anche se poi anche negli Stati Uniti le scelte che furono fatte anche da alcuni che suonavano, insomma, furono abbastanza precise. Mi viene in mente pure Joe Cocker Mellencamp, che a livello politico, a livello della gente che lavorava sulla terra, per esempio, fu per un periodo divenne proprio un paladino della difesa dei diritti, molto di più dei sindacati, dei sociali. E quindi voglio dire, cioè, questo passaggio poteva diventare diretto. Vabbè, alle volte lo diventava, alle volte rimaneva invece più celato, meno palese. È ovvio. Cosa succede quindi, per finire il ragionamento? Succede che il terzo elemento di questa politica era, però, in qualche maniera bisognava introdurre degli elementi di spesa pubblica, perché gli elementi di spesa pubblica erano quelli che poi rimettevano in moto l'economia. Qual è l'elemento di spesa pubblica ai tempi di Reagan che fu portato, aumentò, proprio schizzò in alto? Le armi. Esatto, l'industria bellica. Tra l'altro gestita in maniera estremamente un po' all'italiana, insomma. Beh, per capirci, nel senso, grande corruttela, ricordiamo lo scandalo in Iran-Contras, no? Quindi armi vendute a un nemico che doveva essere l'Iran per finanziare la contra nicaragüense. E quindi, insomma, un po' tutto questo gioco. Quindi grande produzione, una cosa fu prodotta in quel periodo, lo accennavi prima te, la povertà fu prodotta. If reckless in progress is ours once more, now that we have a new Tehran bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sense and enemy, but no, ancora da Candy Apple Grey, il brano che ci sta accompagnando adesso è un brano abbastanza c'è un titolo abbastanza lungo, Don't Want You Know If You Are Lonely, e questo ci serve per ritornare ancora una volta, sempre cantata da Grant Hart, ancora su un brano suo all'interno di Zen Arcade, un brano che si intitola Pink Turns to Blue, passare dal rosa al blu, e ci racconta un'altra storia femminile per uno che poi dichiarò abbastanza subito la sua bisessualità. Ma per esempio Bob Mulder invece è omosessuale sin da quando i ragazzi si conobbero, insomma, e dicevamo proprio ma tra di loro questa cosa non è mai sono sempre mantenuti estranei da questo punto di vista, esatto, e quello che dicevamo pure è che comunque appunto mentre magari nella scena di Washington o in altre situazioni degli Stati Uniti, che sicuramente erano meno rustiche, insomma, Washington era capitale, certo. O in California, dove comunque meno rustiche dei miei, addirittura in New York. dove anzi, insomma, è nato un po' tutto il movimento di orgoglio omosessuale LGBT, insomma, la rivolta del 67 di Stonewall, quindi possiamo sicuramente qui ci troviamo, ricordiamolo sempre, a St. Paul, che è St. Paul che è un quartierino, posto della area metropolitana di Minneapolis, in mezzo ai campi dei grandi. Sì, sì, cioè è sostanziale quello che dicevi, oltre al freddo, sono elementi che poi determinano e hanno sempre determinato nelle storie, specialmente del rock americano, più che quello europeo. E probabilmente anche di quello australiano, un giorno dovremo farcela una puntatina, assolutamente prepareremo un monografico sull'Australia, che è ancora molto interessante. E quindi adesso ho deciso così questa traccia qui invece che stiamo mandando, questa traccia dal titolo lungo che non ricordo più, eccola, lo ripetiamo, tratta invece di quale argomento? Tratta invece è una storia d'amore, questa è proprio una canzone d'amore dedicata a chi poi non vuole più, non è più capace di ascoltare le persone che conosce, una difficoltà dei rapporti, no? All'interno anche di un rapporto d'amore o comunque di coppia, e racconta questo. Mentre invece, sempre per tornare rapidamente alle figure femminili che nelle canzoni di Grant Hart incredibilmente sono sempre presenti, in tutte le sue più belle, più importanti, questa che andremo ad ascoltare, l'ultima da Zen Arcade, parla di una ragazza, di una compagna, che è una canzone drammatica, cantata anche in una maniera molto, molto forte, molto lirica, che a seguito di un overdose cambia colore. Quindi parla di una tossicodipendenza. Una tossicodipendenza. Ok, da Zen Arcade, quindi Askadu. We'll be right back. dato che abbiamo introdotto Warehouse con i soliti problemi tecnici, non possiamo fare che rimandarlo da capo. Das Important Years. Sì, dico quello che mi pare, però volevo pure l'ausilio tuo, perché appunto da Zen Arcade a Warehouse succede qualcosa, insomma. Sì. Ormai le sonorità hanno un po' abbandonato non tanto le ritmiche, che continuano a essere molto pressanti molto. Sì. Però il cantato è assolutamente più melodico, ci stanno meno raughi. Sicuramente, sicuramente è molto psichedelico. Comunque sì. È un disco dove ancora, che so, gli Husker Du si capisce, ma certo, gli Husker Du di Metal Circus sono un'altra cosa. Nel giro di 4 anni, sì. E qui la corsa tra i due è il periodo in cui è più frenetica. Il disco esce con i brani divisi al 50%, perché era l'unico accordo che ormai si era trovato. che reggeva. Metà io e metà tu. E comunque il disco è ancora una volta un doppio CD, un disco ancora voluminosissimo. Comunque un po' questa dualità, appunto, sì. Grant Hart, Bob Mald è un po' la forza e la debolezza. Sì, insieme. C'è chi dice che non potevano sopportarsi, ma se non fossero stati insieme, cioè, non grandezza. Avrebbero mai fatto quello. Quando parliamo appunto di grandezza, poi degli Asker Du, è secondo me perché parliamo appunto di. Innanzitutto di quel. Ripetiamo sempre tutto quel cappello che abbiamo fatto. Ma nella naturalità della vita quotidiana, proprio ragazzi che. I camici di flanella, cioè facevano l'hardcore e loro anche vesti... su questo poi parlando alla fine non aveva nessuna importanza nient'altro così lontani dal se punk non anche, per esempio esatto. Che abbiamo sentito i Clash esatto, prima in cui invece l'aspetto fisico era assolutamente determinante e segnava. Qui invece stiamo a parlare appunto di gente che assumeva e esasperava se vuoi i ritmi del punk perché la hardcore è questo. Beh. Ma lo faceva appunto manica di camicia, andava di pantaloni. Mi ricordo che i pischelli che suonavano l'hardcore dicevano che erano i più veloci del mondo, gli Asker Du, in un periodo erano considerati i più veloci, anche perché erano capaci a suonare, insomma. Poi è una cosa che dimentichiamo spesso. Certo, perché io me ne dimentico perché non ho mai suonato, quindi ho solo ascoltato, però certo chi suona si rende conto ancora di più. Che erano un punto di riferimento e soprattutto poi per appunto per le trovate innovative, la capacità di estendere probabilmente anche di arrivare a questo warehouse, di cambiare suono, di dire, di esprimere, abbiamo un po' sempre detto, gli stessi concetti, tutto sommato i testi calcano. Rimangono, sì, no. Le tematiche solide, anzi, però suonare... mai con una... anche se non c'è stata una scelta, diciamo così, di buttarla più in politica attraverso i suoni, no, loro questo non lo fecero. Non lo fecero perché comunque erano tanti i casini che ci avevano al loro interno che non lì ci vuole anche un'unione, no? Un'unione di intenti, perché altrimenti non si può fare una scelta del però genere. Fatto sta che resta il fatto una band si vai che sono stati molto più attenti a tante tematiche di molta altra gente che magari 4-5 anni di crescita, di arrivare al vertice della creativo situazione. Tutto sommato adesso è morto Grant Hart con grande nostro raccapriccio all'anima sua, sì. Però in finale, cioè, non è che non so, quando sono morti altri dello Star System, pagine dei giornali, articoletto su Repubblica, sì. Eccetera, eccetera. Eppure, se te vai. Beh, su rumore online, la rivista ci fu un bello omaggio. Sugli addetti alla voce. Proprio questo dicevo: cioè, una band seminale, per cui tutti hanno crediti, chi suona ha crediti tutti. Con gli Asker Du, dai Sonic Youth. Ma ai Dinosaur Junior, ma gente importante, insomma, gente che importante, poi ha fatto che ha cambiato, carriera, come fatto si dice, la musica che è diventato riferimento, eccetera, eccetera. Tutti citano gli Asker Du, sì. Però gli Asker Du in fondo sono abbastanza dimenticati. Poi, ti volevo dire che ho rimediato un piccolo articolo, sono riuscito a tradurlo, in cui un giornalista locale, l'ultima volta che Grant ha suonato a Minneapolis. Praticamente stava morendo e allora gli amici più stretti, e Bob Mould in quell'occasione non c'era, hanno fatto un piccolo concerto per lui e lui li ha salutati dicendo vi ringrazio, ci vediamo più giù, dice, gli disse l'ultima volta lungo il cammino e molti un po' un testamento, fu l'ultima volta che lo videro. Ha avuto una vitaccia, un ragazzo che ci ha avuto una vitaccia, ha avuto la grande forza del rock and roll, ma ci ha avuto anche parecchia sfiga, insomma, voglio dire. Certo, restano queste canzoni che in qualche modo ascolta, non lo faranno mai dimenticare. Ma a parte questo episodio così finale di vita, Bob Mould e Grant Hart in altre occasioni però mi sembra che abbiano risuonato insieme così estemporaneamente. Mi pare che una volta a un concerto, diciamo tra virgolette, di beneficenza per un'associazione che si occupava di sfrattati, di gente che non aveva la casa, per tanto dire, per no? capire, tanto sì, per poi, capire no, che appunto, poi alla fine la vita non si fa tanto rumore, esatto, ma si fanno piccole cose, si è presenti, insomma. Suonarono insieme, sì, e, suonarono insieme in quell'occasione e cantarono e fecero due brani, e uno dei due che avevo anche portato, ma lo metteremo la prossima volta che capiterà. Una cover dei Ramones insieme, ah, che poi sta pure su The Living Hand, che è l'ultimo. Tanto poi per far capire come nemmeno poi le radici sono quelle. Alla fine il punk c'è dentro, però certo, ormai è qualcosa di lontano, di trasformato. È proprio questa forse la grandezza, proprio di saper prendere, certo, attingere e poi creare. La bellezza è la capacità di che comunque cresci, insomma, cresci comunque anche a livello musicale, insomma, come musicista. Invece dal punto di vista nostra trasmissione abbiamo ancora pronto qualcosa da parte tua, quindi andiamo ad affrontare l'ultimo argomento della serata, 23-12 minuti. No, non è grosso, dai, è una citazione che ci dovevamo fare perché poi abbiamo un paio di cose da raccontare. Radio Onda Rossa, 23-12 minuti, 87.9 della modulazione di frequenza, 06491750 il numero di telefono della radio, 6180 4001, conto corrente postale Radio Onda Rossa, anzi non è Radio Onda Rossa ma è Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, 00185, Roma. Stiamo parlando, siamo entrati in un altro momento storico, no, un altro momento, lo stesso momento storico, ma in un luogo distante migliaia di chilometri. E stiamo raccontando la storia di coloro che furono accostati all'epoca agli Askerdu in suolo patrio, e tante erano le affinità. Ne parlavamo prima con te, se vuoi andare così concludiamo pure. Sì. Parli di China? Sì, parlo, ecco qua, adesso c'è il microfono. Parli di China? Parlo di China, e loro sono i China, e da cui abbiamo ascoltato Riprendiamoci la vita, quindi tematiche del punk hardcore nostrano, certo. I China nacquero pure loro nel 1982. Nacquero in una provincia italiana, stavolta fredda, anche questa fredda, non tanto nelle pianure, insomma, non venivano colte dai gelidi venti che venivano prima dall'Artico e poi dal Canada, ma comunque in un posto estremamente privo di qualsiasi attrattiva per i ragazzi di quell'epoca, giovani di quell'epoca, se non per quello che loro si sapevano creare da soli. Molte volte erano attratti da Torino e quindi dalla grande città e dalle altre scene, quella di Milano del Virus, quella di Pisa, quella di Bari, a quei tempi erano un po' i luoghi, quella di Roma o quella di Bologna, quella di Roma faceva un po' a parte, insomma. E niente, insomma, Ghina cominciarono a suonare questo hardcore. Questo è proprio quello del primo disco, quindi estremamente acerbo. Poi pian piano si evolsero e appunto nella loro provincialità è scritto un po' dappertutto, ce l'hanno anche raccontato qua proprio in diretta negli studi o telefonicamente. Giampiero Capra, in un'intervista fatta proprio qui da noi, non conoscevano gli Asker Du, non sapevano nemmeno chi fossero. Sì, sì. E lo scoprirono durante un tour in Germania. Sì, in Germania a un certo punto stavano. Allora, anche qui si trovavano in queste situazioni di panchettoni che vivevano essenzialmente nelle occupazioni che stavano proprio lungo il muro di Berlino, che separava appunto Berlino Est da Berlino Ovest. E c'erano queste occupazioni che erano lungo questo muro e lì si facevano, c'era una sorta di TAZ, quella di zona temporaneamente autonoma, cioè di un luogo comunque in cui di case occupate essenzialmente, in cui appunto poi si facevano concerti, in cui si facevano anche concerti, e che era un po' l'attrattiva. Prima parlavamo per esempio di la scena australiana. Nick Cave visse per molti anni, per alcuni anni a Berlino, e proprio in quella situazione. E, ecco, a un certo punto suonarono e i tedeschi gli dissero: vabbè, ma voi siete come gli Asker Du. Perché? Perché tra l'altro appunto non badavano affatto a... Sì, Ghina in parte, qualche giubbettino, insomma, cioè, però loro spesso andavano calzoncini corti, capito? Andavano a suonare e quindi erano assolutamente identici. Loro non li conoscevano, hanno imparato a conoscerli e sono diventati anche una delle loro... Poi adesso non mi ricordo in quale occasione, non credo, non ho trovato riferimenti, il libro di... Che forse mi dicevi che sì, il libro di Giampiero li conobbero direttamente. Il libro di Giampiero ne parla, allora non sarà me lo così, ricordo, forse così. Un concerto a Amburgo, che addirittura c'erano i primi Fugazzi, insomma... Una cosa... Più in là, negli anni, sì, c'è. Conobbero pure gli Asker Du. Quindi Ghina, appunto in questo parallelo storico, come un'eterogenesi dei fini in cui da due luoghi diversi nasce un'affinità abbastanza simile, abbastanza identica, e porta gli stessi. Che succede dopo? I Ghina si sciolgono pure loro, poi si ricreano, insomma. Per fortuna la storia dei Ghina è un pochino, hanno suonato anche per noi, ricorderai, parecchi anni fa, insomma, uno degli ultimi concerti come Ghina. Dopo l'esperienza dei Ghina, pure quella esperienza molto bella, molto, molto importante, bella, molto importante, ne abbiamo parlato in lungo e in largo. Insomma, a un certo punto vari scioglimenti, si forma, ovviamente continuano a suonare loro, e Sergio il batterista e Alberto vanno a fare un altro gruppo, un altro trio che si chiamano Frontiera, e che, guardate, sentite un po' che suoni che fanno. Ora non si può dire che gli Asker Du non li conoscessero, ormai li conoscevano, e questa è una traccia tratta dal disco dei Frontiera che si chiama Strana Corsa, da cui andiamo, Strana Corsa. Sì, da cui andiamo ad ascoltare proprio, se non sbaglio, Strana Corsa. Una bella copertina, poi. Che è la quinta traccia. Fare mai una vita di cose. 23:30, siccome è festa pure per noi. Abbiamo iniziato abbastanza presto, insomma un'ora e mezza dedicata a Grant Hart. Quindi questo per dirvi che stasera finiamo anticipatamente, troverete comunque la registrazione podcast di questa trasmissione sul sito della radio per chi l'avesse perso. Le trasmissioni riprenderanno domani mattina dopo avervi lasciato in compagnia della compagnia automatica Ario. Riprenderanno domattina con alle 8 la lettura delle prime pagine del giornale, la segna stampa cittadini e redazionali dalla città. Fino ad arrivare alle 13, quando ci sarà il giornale radio, alle 13:30 lo spazio comunicazioni visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. Non so se domani già inizierà Tracce di Cinema, ve lo do come dubbio. Invece va in onda Attica Blues oltre a Black Music e La Schiena del Sole alle 17, quindi 16:17 Attica Blues e La Schiena del Sole. 18:20 il Mezzedes del giovedì. Spazio comunicazione poi il martedì, o comunque spazio occupato da compagne femministe e lesbiche alle 23, speriamo che torni. Fongis, Pizzo e la loro apostasia. A chiudere, il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, clandestinità, latitanza, arresti domiciliari. Tutte le strutture che servono per detenere la forza lavoro immigrata in questo paese, che riescono ad ascoltarci. Vabbè, un arrivederci al Conte Max, ci siamo lasciati con... Ciao a tutti, ciao, alla prossima. Con tanti propositi per il futuro, chissà che qualcuno non ne riusciremo a realizzare nelle prossime settimane. Sta anche a quanto riusciremo a prepararci con i nostri tempi mastodontici. Dai, e noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Un saluto a tutti e a tutte, un abbraccio, dai. Perché ho cercato, per cui sono cambiato. Perché ho cercato. All my mind. again.